Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona settimana a voi, grazie per essere in nostra compagnia. In regia c'è Pietro Lacorte, in redazione Laura Vanossi. Iniziamo bene la settimana con i titoli del nostro sommario. La spalla ti fa male? Fermati, parlane con noi. Il brufolo se ne fa un baffo del cioccolato. Hai la forfora? Fatti un impacco. Eccoci qui per parlare di una pessima compagnia. Parliamo del dolore alla spalla. Se di notte ci sveglia, di giorno ci blocca. Proprio la scorsa settimana un'ascoltatrice mi ha mandato una mail per chiedere un consiglio ai nostri specialisti, per descrivermi un po' la sua situazione. Mi ha scritto: ha presente un gufo impagliato che cerca di muoversi? Bene, quella sono io quando mi pettino, mi infilo il cappotto, mi allaccio al reggiseno. Un disastro. Allora, se la vostra spalla vi dà problemi, se avete dolore, difficoltà a fare alcuni movimenti, se ogni tanto, non si sa come e perché, decide di mettere il naso fuori casa e di andare fuori posto, chiamateci. Analizzeremo con attenzione il tipo di dolore, come si manifesta, le limitazioni che vi provoca, per darvi tutte le indicazioni del caso. Potrebbe essere sufficiente una buona riabilitazione, oppure potrebbe essere necessario un intervento. E se questo fosse il caso vostro, vi do subito una buona notizia: oggi gli interventi sono sempre più raffinati e meno invasivi, sono quasi dei rammenti. Ma oggi parleremo come sempre di prevenzione, quindi consigli per evitare di stressare troppo questa articolazione, che è la più mobile ma ahimè anche la meno stabile. Oggi avremo a disposizione tanti esperti. Il dottor Respizzi è qua in studio con me, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Dottor Respizzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, il dolore alla spalla, dottor Respizzi, è molto diffuso tra i giovani, ma non risparmia neppure i meno giovani. Le prime avere pesano, è il caso di dirle, si fanno sentire, la differenza di età conta ed è proprio una variabile da tenere in considerazione. Anche noi lo faremo nel corso della nostra trasmissione. Perché però, dottor Respizzi? Perché purtroppo la spalla, come accade in tante altre nostre parti del corpo, va incontro a dei processi di invecchiamento. E quindi noi classicamente distinguiamo le patologie della spalla, quelle over 50 o under 50. E questo è un aspetto legato proprio a modalità molto diverse di sofferenza della spalla. Nella spalla giovanile, diciamo così, i problemi sono legati di solito a una pratica sportiva, anche amatoriale, mentre invece nella spalla anziana ci sono problemi proprio di degenerazione dei tessuti, di invecchiamento dei tessuti, quindi con una sofferenza che è completamente diversa rispetto allo sportivo, anche amatoriale. Quindi noi parleremo delle spalle giovani e meno giovani, segnali di sintomi, segnali di allarme, parleremo sicuramente di prevenzione. Ma dottor Respizzi, io vorrei parlare anche di quel dolore alla spalla che può essere un dolore riflesso, quindi un dolore che arriva alla spalla ma parte da un'altra sede. Proviamo ad inquadrarlo. Giustissimo. La spalla è ingannevole a volte, perché può essere la sede di un dolore che origina dalla famosa cervicale, quella che noi consideriamo un punto sempre dolente. La colonna cervicale, la parte del collo, ha una caratteristica di avere l'irradiazione dei nervi che vanno anche alla spalla, per cui un dolore alla spalla può essere di origine della cervicale e quindi è completamente un altro quadro che non deve ingannare, per la quale bisogna porre una diagnosi molto precisa, diversa, e anche i trattamenti sono molto diversi. Ad esempio non c'entra niente l'aspetto chirurgico nel caso del dolore di spalla da cervicale cosiddetta. Come facciamo a capire che è la cervicale che ci fa bloccare la spalla o avvertire un dolore invalidante alla spalla? Certo. Perché si manifesta di notte ma anche di giorno, certo. Poi ci blocca. Il dolore da cervicale è un dolore più generale che di solito si radia anche a tutto il braccio e che può dare quelle sensazioni di formicolio, di mancanza di forza, di difficoltà anche di sensibilità. Quindi è una cosa più diffusa lungo tutto l'arto, che magari è principalmente localizzato alla spalla, ma che si irradia poi verso il basso. Un dolore che cammina, che insomma. Cammina, bravissima, fin verso la mano. E quindi questa è la differenza sostanziale proprio dal punto di vista clinico quando si visita il paziente. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde, sempre attivo, se volete raccontarci come sta la vostra spalla o anche le vostre spalle. Perché le spalle. 349-238-6666 se invece preferite mandarci un messaggio. Una mela al giorno.

che so, cioccolata con pasta di foruncolo, possiamo ricordare quell'evento, ma se noi mangiamo cioccolata e il foruncolo non viene, noi tendiamo a dimenticare quell'evento, per cui la nostra emotività ci può giocare un brutto scherzo nella valutazione dell'effetto. Dottor Bettoli, io la ringrazio per essere stato con noi, appuntamento prestissimo, torneremo ad affrontare questo tema, sono arrivati tantissimi messaggi, grazie dottore, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Pronto soccorso. Dolore alla spalla. Torniamo ad occuparci del tema del giorno. La spalla, abbiamo detto, è un'articolazione molto mobile ma poco stabile, quindi è facile che ci dia qualche problema. Ci ha raggiunto intanto il dottor Alessandro Castagna. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Alex. Ciao Stefano. Il dottor Castagna è responsabile dell'unità operativa di chirurgia della spalla di Humanitas. Dottor Castagna, abbiamo già detto con il dottor Respizzi, abbiamo fatto un po' un distinguo del dolore alla spalla in base all'età, per chi ha più di 50 anni, per chi ne ha di meno. Quindi un dolore alla spalla provocato da trauma, da sovraccarico, un dolore invece alla spalla provocato, lasciatemi dire, dal logorio degli anni, da un sovraccarico magari. Purtroppo è vero, è anche un po' inevitabile. È inevitabile. Allora, partiamo dal dolore. La prima cosa da fare è discriminare tra un dolore di origine muscolo-scheletrica e un dolore riflesso che arriva alla spalla. Partendo da un'altra sede, il dottor Respizzi ci faceva l'esempio del dolore che arriva alla spalla dalla cervicale. Ma intanto io mi farei aiutare dalla nostra scheda che Pietro Alla Corte ci manda subito per capire quali sono gli aspetti che dobbiamo tenere in considerazione, dobbiamo riferire al medico. Andiamo. Il dolore è sempre presente, oppure è scatenato dal movimento. Sei riuscito anche ad individuare il movimento incriminato? Ti fa male, ad esempio, se sollevi un peso, oppure se ruoti il braccio, o se assumi una particolare posizione per un tempo prolungato? Il dolore si accentua muovendo il capo e il collo? Localizza il punto in cui la spalla ti fa male. Il dolore è fisso, o si irradia anche al braccio, limitandone il movimento e diminuendo la forza. Di notte si calma o al contrario la sensazione dolorosa si aggrava. Dottor Castagna, allora riprendiamo velocemente la nostra scheda per capire in base al tipo di dolore, alla sua localizzazione, al momento di insorgenza, quali strutture della spalla possono essere interessate. Prendo spunto da alcuni ascoltatori che mi hanno già suggerito con i loro messaggi alcune domande. Ad esempio, alla mattina ci si alza con la spalla pesante, un po' intorbitita, dolorante, e dopo qualche ora il dolore gradatamente passa. Dottor Castagna. Ecco, questo è un dolore generalmente che riguarda quelle persone un po' più avanti con gli anni. Sì. Se non è un dolore che insorge durante il sonno e che ci sveglia, se è questo tipo di rigidità e di intorpidimento mattutino, spesso è legato proprio a usura delle strutture, che può coinvolgere la cartilagine e le superfici articolari, quindi essere una fase iniziale di artrosi. Possono esserci eventualmente un po' i tendini consumati, ma senza lesioni principali. Quindi questo è un dolore più tipico di chi ha superato gli ante, intesi come 50. Ma direi anche oltre, abbiamo parlato dei 50, forse un pochino più avanti, anche se ovviamente sono tutti questi confini assolutamente mobili. Dottor Respizzi, invece se la spalla fa male, soprattutto di notte, come capita a Carlo, che ci ha mandato un messaggio al 349-238-6666, quindi un dolore che arriva a riposo, ma il dolore è pungente, come un mal di denti, ci scrive Carlo. Sì. In questo caso, quando il dolore notturno di solito è dovuto alla posizione che assumiamo nella notte, che prevede, in questo caso come difesa, di un avvicinamento della spalla al tronco e del braccio e quindi può sollecitare le strutture della spalla. Come si fa per farselo passare? Bravo. Che è la cosa più importante. Noi oggi vogliamo guarire. Certo. ci si deve alzare. Sì. E fare dei movimenti pendolari del braccio, cioè lasciare piegare il tronco in avanti, lasciare il braccio che ciondola nel vuoto, proprio in maniera molto molto rilassata. Questo allunga i muscoli, fa un po' di stretching della spalla e di solito allevia in maniera importante il dolore, quindi non c'è da prendere farmaci, non c'è da fare niente se non avere la buona volontà di alzarsi 5 minuti, fare questi esercizi e poi si ritorna a dormire. Andiamo a Trento, ci aspetta Cinzia, 800 24 00 24. Cinzia, benvenuta, buongiorno. Sì, complimenti per la trasmissione intanto. Senta, io faccio un lavoro che uso continuamente il braccio sinistro, di notte dormo pochissimo. Sì, ma che lavoro fa Cinzia? La sarta. Ah. E allora con il braccio sinistro giro i capi e insomma lo uso durante tutto il giorno, sì, che alla cioè quello che mi disturba di più è che di notte mi sveglio proprio col male, con un dolore, perché di giorno ce l'ho, però muovendo il braccio non mi accorgo, anche perché devo lavorare, sì, che non ci penso. Sì. E quello che mi dà proprio più fastidio è la notte, perché è un dolore che mi parte dalla spalla e mi arriva al gomito, ed è intermittente, cioè parte dalla spalla, cammina fino al gomito, poi si ferma, poi ritorna dalla spalla verso il gomito. Non so se dipende dai cervicali oppure proprio dal lavoro che faccio durante il giorno. Dottor Castagna, mi faccia una diagnosi cucita su misura. Allora, una diagnosi certo, non si può, allora, ma almeno no, un'indicazione. Certo, una diagnosi non si può, però è un esempio abbastanza classico. Quasi certamente, chiedo alla signora, appartiene a quale gruppo della popolazione? Credo a quello degli ANTA. 51. Beh, benissimo. Appena fuori. Appena fuori. È probabile ed è possibile che ci sia un problema della cosiddetta cuffia dei rotatori, cioè dei tendini che avvolgono proprio come una cuffia la testa dell'omero. Sì. Stando col braccio in elevazione per tanto tempo, come mi sembra faccia la signora, e sforzandolo, probabilmente questi tendini si sono un pochino logorati, possono addirittura arrivare un pochino a danneggiarsi e a rompersi. Si può sviluppare una borsite, e questo tipo di lesione proprio durante la stasi di drenaggio venoso linfatico, quando siamo a riposo di notte, tende a essere più dolente. Ed ecco che quel consiglio che ha dato prima Stefano Respizzi è assolutamente vincente per farci riposare. Questa può essere un'opzione, quindi il tendine che soffre, la cuffia dei rotatori che soffre, il dolore è notturno. Esiste poi un'altra condizione diversa, anche se sempre in qualche modo una piccola malattia benigna del tendine, che è la tendinopatia calcifica. Sì. Cioè quando si depositano i cristalli di calcio nel tendine sempre della cuffia dei rotatori, si può avere dolore, ed è un dolore anche notturno. Per capire che cosa sta succedendo e capire se c'è una tendinopatia calcifica piuttosto che una patologia della cuffia, bastano delle buone radiografie e una buona ecografia per discriminare immediatamente le due famiglie di possibili cause. Il dolore della spalla, ed è per questo che ho detto che l'esempio era ben condotto, si irradia generalmente fino a metà del braccio, un po' verso il gomito, non arriva fino al gomito, arriva più o meno verso l'inserzione del deltoide, metà del braccio. Sì. E torna, va avanti e indietro, e questo è un dolore tipico proprio della patologia di cuffia. Siamo tornati insieme, oggi parliamo di spalla, insieme al dottor Respizzi, che è qua in studio con me, e al dottor Alessandro Castagna. C'è stato tra l'altro un convegno molto importante questo weekend a Milano, dove i massimi esperti si sono riuniti per fare un po' il punto della situazione. Io ve ne ho catturati due, quindi approfittatene. 824 0024, riabilitazione e interventi chirurgici. Quando? Scriveteci al 349 238 6666. Approfitto per fare una piccola parentesi a cui tengo molto. Il 27 febbraio si celebrerà la giornata mondiale delle malattie rare, ma oggi vi voglio parlare di un blog che è già attivo, che vuole diventare un punto di riferimento per tutti quanti sono direttamente o indirettamente coinvolti. Si chiama www.lemalattierare.info, uno spazio aperto alle testimonianze di vita ma anche all'approfondimento scientifico. In linea con noi la collega giornalista Margherita De Bacca, autrice anche del libro di cui abbiamo parlato più volte, Siamo solo noi. Ciao Margherita, benvenuta, grazie. Ciao Nicoletta, buongiorno. Margherita, sono oltre 6.000 le malattie rare conosciute, 5 casi ogni 10.000 persone. Anche con il tuo libro e con tante campagne abbiamo capito che rare è un aggettivo che ci sta stretto. Nasce questo blog con quale intento, Margherita? Con l'intento di dare un seguito al libro e continuare a dare ascolto a migliaia, a milioni forse sicuramente di famiglie che sono alla ricerca di diagnosi, di cure e che hanno mille difficoltà per risolvere problemi sconosciuti fino a quando finalmente da un anno a questa parte non se ne è cominciato a parlare. Da qui la necessità dopo il libro di aprire un blog dove possano trovare spazio tutti quanti hanno problemi personali da segnalare, ma soprattutto per dare delle informazioni scientifiche su ricerche, stato dell'arte, evoluzione, farmaci nuovi, un blog blog scritto da un giornalista come siamo noi e quindi non istituzionale. Margherita, ricordiamo allora il www.lemalattierare.info a vostra disposizione. Grazie Margherita per il tuo lavoro. Buona grazie giornata. Grazie a voi, grazie. Spalla, ahimè. Quando inizia a fare male una, poi subito dopo anche l'altra e inizia un po' a zoppicare per il dolore. Dottor Castagna, sì. Come fate voi a capire esattamente la causa del nostro dolore? Parliamo un po' di diagnosi, di esami, alcuni sono necessari, altri inutili, altri fanno vedere le cose così e così, insomma gli esami giusti, perché poi una volta arrivati alla diagnosi sappiamo se è necessaria la riabilitazione oppure dobbiamo passare la mano al chirurgo. Certo, beh, innanzitutto purtroppo, ma è una verità che non bisogna mai nascondere, non sempre riusciamo a capire la causa del dolore. Sì. Diciamo, ci riusciamo con una certa frequenza, stiamo migliorando sempre più, ma la perfezione non esiste nella nostra professione e quindi non sempre riusciamo a risolvere i problemi o a inquadrarli come si dovrebbe. Tuttavia, ovviamente riusciamo a fare anche diagnosi e diagnosi precisa. E l'orientamento prima di affannarsi a fare esami che spesso sono costosi e non sempre necessari, alla fine diventano anche un onere per il nostro povero servizio sanitario, se non necessari non si devono quindi fare, la prima cosa è una visita, cioè l'esame clinico. Sì. È il medico che deve ascoltare il paziente e già dalle informazioni che riceve, è successo pochi minuti fa con la signora che fa la sarta, e il medico riceve tante informazioni ascoltando il paziente, qualche minuto, si chiama anamnesi, aiuta moltissimo. Dopo questa fase di ascolto c'è la fase di test, cioè la visita. Esistono dei test che ci orientano in maniera non perfetta ma abbastanza precisa. Sì. E una volta messi insieme i dati della storia clinica che ci ha raccontato il paziente, dell'esame obiettivo, faremo gli esami richiesti, utili e necessari. Ancora una volta, l'esempio di prima è utile, con delle semplici radiografie e una buona ecografia si può già discriminare moltissimo. Se abbiamo poi dei dubbi più sofisticati, più importanti, l'esame successivo può essere una risonanza magnetica, anche con mezzo di contrasto intraarticolare, oppure una TAC, soprattutto se è l'osso il nostro principale obiettivo, cioè studiare la struttura ossea della spalla e non solo quella tendinea e muscolare. Però questa è una fase già successiva, quando il dubbio diventa importante e quando il rischio di avere un intervento chirurgico diventa un po' più elevato, ecco che essere precisi e circostanziati nella diagnosi diventa più cruciale. Giuseppe ci chiama da Milano. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Può farci... Io ho sì. 53 anni. Sì. Qua ormai dichiariamo tutte la nostra età, abbiamo messo spalla sopra e sotto i 50 anni, tutti la dichiarano, giustamente. Giuseppe, quindi 53 anni, qual è il suo problema? Io ho da qualche giorno un dolore fisso al braccio destro, al gomito destro, ma mi prende anche la spalla, anzi sono dei giorni dove proprio la spalla, il braccio stesso è come se sentissi 100 kg, cioè pesantissimo. Quindi pesantissimo. Allora, che fare? Così il dottor Respizzi ci dà anche oltre a farci capire che cosa potrebbe essere, ci dà anche un'indicazione, come ha fatto per la signora nell'esercizio notturno. Assolutamente. Dunque, questo che riferisce il paziente potrebbe orientarci più a un aspetto di origine cervicale. Sì. Quando il dolore al gomito è così lontano dalla spalla, ha già camminato ed è già arrivato fino al gomito, è più probabile che origini da un'altra parte. Anche il senso di pesantezza che viene descritto, di impaccio, dovrebbe essere di origine neurologica periferica, quindi a partire dalla cervicale. Quello che io consiglio al signore è di effettuare, di farsi vedere naturalmente da un medico, di fare una visita corretta e eventualmente di effettuare una banale radiografia della cervicale, sì, con una proiezione anteriore e una laterale. Già questo può essere sufficiente per porre diagnosi di discopatia, di difficoltà di passaggio delle terminazioni nervose. Quindi anche in questo caso, e sono d'accordo con Castagna, non è necessario andare a fare esami clamorosi. Può essere più che sufficiente una banale lastra della cervicale. Abbiamo degli esercizi da consigliare, sì, a Giuseppe e alle persone che si ritrovano nella sua situazione? Sono tanti, abbiamo paginate, certo, di SMS. Io direi di sì, perché ci sono degli esercizi di corretta postura che della colonna cervicale e anche del resto del nostro tronco che vanno assolutamente proposti ai pazienti. Anzi, mi voglia quasi di lanciare un'idea di fare una puntata proprio su questa cosa, vista la quantità di domande che vengono fatte. E proveremo a spiegare via audio, sì, come si fa a vedere un video, che è una cosa un po' diversa. Però secondo me è proprio importante riuscire a insegnare ai pazienti questi trucchetti, queste cose, magari coinvolgiamo un fisioterapista in questo volentieri aspetto, perché il fisioterapista è una figura assolutamente chiave. Ah. E, quindi indicazione corretta postura, stare un po' dritti? Esatto, nel caso del signore bisogna capire se lui ha l'abitudine di stare con la testa in avanti, protrusi in avanti, un po' ingobbito. Sì. Se è così deve imparare a tirare indietro le spalle, a correggersi. Pancia in dentro, petto in fuori, giusto? Si parte sempre dal sedere. Ah, non è bello, ma è così. No, perché sedere può anche essere bello, assolutamente. No? Assolutamente. Anzi, questo aiuta. Cioè, bisogna rinforzare la muscolatura glutea, e quindi avere un'attenzione a questo, la muscolatura addominale, del tronco e poi infine delle spalle. È tutta una catena, quelle che noi chiamiamo le catene cinetiche, che va corretta per avere una postura più rettilinea. Dottor Castagna, io invece ho bisogno di lei perché molti ascoltatori mi stanno scrivendo di chiedere un'informazione per chi ha la spalla che esce fuori posto. Può capitare, spesso almeno dai messaggi sembra che capiti durante l'attività sportiva, ma capita solo in quelle occasioni oppure può uscire anche facendo piccoli movimenti quotidiani? E che cosa si può fare? Ovviamente è un discorso complesso che schematizzato va poi preso sempre nei suoi limiti, però sommariamente l'avete già ricordato stamattina, la spalla è l'articolazione più mobile di tutto il corpo umano. Sì. Come dico spesso ai miei pazienti, anche per rasserenarli quando hanno un'instabilità della spalla, cioè si lussano, dico state tranquilli, non siete soli al mondo, pensi che nelle statistiche mediche sfioriamo il 2% della popolazione che ha l'esperienza della lussazione della spalla nella vita, che è un numero molto elevato, direi enorme. Perché? Perché l'instabilità è in qualche modo intrinseca a questa articolazione. Padre Eterno, per dare tanta mobilità, ha dovuto barattarla con una stabilità che è vulnerabile ed è precaria. Quindi niente di raro, niente di drammatico. Purtroppo fa parte della vita. Pensi che esistono dei papiri egizi dove si vede il disegno di una riduzione di lussazione di spalla e che Ippocrate, 400 anni o giù di lì prima di Cristo, descrisse un modo di cauterizzazione della spalla lussata per cercare di tenerla bloccata nella sua posizione. Pensi quanto la storia è antica. Quindi è proprio intrinseco all'articolazione questa instabilità. Quindi il primo messaggio, tranquilli, non è una brutta malattia, è tuttavia una cosa che può rendere la qualità della vita, in particolare di un giovane sportivo, molto limitata. Purtroppo quando si lussa frequentemente la persona, in questo caso il ragazzo o la ragazza, non può più fare il suo sport amato, eccetera, eccetera, o le sue discipline, le sue passioni, e ahimè, se la lussazione è franca e tende a ripetersi, la chirurgia è la soluzione. Nelle forme leggere di microinstabilità la riabilitazione può avere un ruolo, ma se c'è proprio un danno strutturale che si è instaurato dopo un trauma o molti traumi ripetuti, intensi, ecco che diventa chirurgia la soluzione. E ultimo e non ultimo, anche quando operiamo, una piccola percentuale di recidiva deve essere messa nel conto. Come dico io scherzosamente, il Padre Eterno ha il 2% di recidiva, che qualche percentuale sia concessa al chirurgo che arriva dopo che qualcosa si è rotto e cerca di aggiustarlo, ma è pur sempre un essere umano. Dottor Castagni, io so che lei deve tornare in sala operatoria, le rubo però qualche minuto. Dottor Castagna, prima che lei torni in sala operatoria, ecco, quali sono le indicazioni all'intervento? Beh, innanzitutto potremmo dire sempre e mai, perché ritengo obbligatorio l'intervento quando c'è qualcosa che minaccia la nostra vita. Sì. Una spalla che è dolorosa o non funziona bene, nel primo caso è quando abbiamo per esempio una rottura della cuffia, non funziona bene quando si lussa, non è una condizione che minaccia la vita, ma minaccia la qualità della vita. Sì. Se la minaccia sulla qualità della vita è elevata, è giustificato arrivare anche a un intervento. Quindi la sequenza direi di informazione è questa, non è un obbligo, è un'opzione che oggi è diventata meno minacciosa, come avete già ricordato, del passato, semplicemente perché sono chirurgie che riusciamo a fare non sempre, ma quasi sempre, con queste nuove tecniche endoscopiche, quindi con anestesia locale. Il paziente non ha ricovero, viene la mattina in ospedale, il pomeriggio va a casa, e con i famosi buchini. Sì. Quindi il rischio operatorio è bassissimo, nulla è mai zero, ma è molto molto basso. Le complicanze non sono zero ma sono veramente remote e i risultati sono molto buoni, mai perfetti. Quindi la chirurgia è una risposta a un decadimento della qualità della vita della persona, che sia il giovane che ha un'instabilità della spalla che non riesce a far sì che la sua vita sia normale, o che sia un signore degli anta, una signora degli anta che ha tanto dolore e non dorme di notte, l'opzione chirurgica diventa sensata, in modo particolare proprio perché è così poco invasiva. Dottor Castagna, lascio il suo lavoro. Buon lavoro, buona sala operatoria, ci sentiremo presto e buona giornata, grazie. Grazie a voi e buon ciao lavoro. Alex, ciao. Avrei Luca che ci chiama da Milano. Luca, buongiorno, e poi parliamo del post-operatorio anche, yes, dottor Respizzi. Certo. Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti, complimenti per la trasmissione e grazie per lo spazio. Mi dica tutto. Ho un problemino che mi porto avanti da qualche anno, ovvero una triartrite alla spalla destra. Sì. Ho fatto 3 anni fa delle applicazioni con gli ultrasuoni, dopo aver fatto chiaramente le analisi, ovvero ecografia e radiografie. Sì. Sembrava risolto al momento e non dava più fastidio più di tanto, era un leggero dolorino. Adesso dopo 3 anni è ricominciato. E ogni volta, tutte le mattine che mi sveglio, è una cosa abbastanza fastidiosa, molto fastidiosa. Molto fastidiosa. Chiediamo un aiuto al dottor Respizzi. Luca, qualcosa ha già fatto. Sì, una cosa che però è importante, Luca, che lei mi dica. Questa diagnosi di periartrite è piuttosto generica e noi tendiamo a non usarla più. Periartrite vuol dire una sofferenza della spalla. Come io dicessi, lei c'ha male la spalla, non è una diagnosi molto precisa. Sarebbe più preciso, quello che mi hanno detto era molto preciso, ovvero c'erano delle scagliette di calcificazione certo. Nei tendini. Grandi, ecco, di cui proprio... Quindi la diagnosi giusta, sarebbe di tendinopatia calcifica della spalla. Quindi ci sono dei depositi di calcio dentro nel tendine. È una cosa che purtroppo accade abbastanza frequentemente. Alcuni di noi hanno questa caratteristica di depositare sali di calcio quando non servono. Ad esempio quelli che vengono anche i calcoli a fegato, certo. A citofeglia, sono queste cose qua. E questi depositi di sali di calcio sono di solito legati a un'infiammazione. Quindi lei probabilmente ha sviluppato una tendinite del tendine del sovraspinoso, si sono depositati i sali di calcio e questi sali di calcio rimangono lì. Nella lastra o nell'eco si vedono come una specie di nubecola, come se fosse un sassolino dentro. Sì. Di solito è materiale anche abbastanza caseoso, tipo un dentifricio, che non è una cosa fissa, che va curata. Nel caso specifico l'ultrasuono ha avuto probabilmente solo una funzione di tipo antalgico, cioè ha tolto soltanto il dolore, ma non ha risolto la causa. In queste forme sono molto più consigliate ad esempio le onde d'urto, che sono delle tecniche di somministrazione di ultrasuoni ancora, ma ad altissima intensità, che frammentano questa cosa. Sì, dove c'è da polverizzare entra nell'onda. Neanche da polverizzare, perché è questo materiale caseoso, sì, un po' strano, però lo manda via, lo rimanda in circolo. Quindi favorisce poi la guarigione del tendine e la riformazione del tendine, per nostra fortuna siamo autoriparanti, nella maniera corretta. Quindi approfondirei un attimo questo aspetto qui, sia dal punto di vista diagnostico che terapeutico. Dottor Respizzi, se lei è d'accordo, dato che abbiamo tante telefonate, io darei la voce agli ascoltatori, certo, e per ogni caso diamo dei consigli che possono essere utili a chi ci sta ascoltando. Andiamo a Chieti, ci aspetta Ivano, a cui chiedo di essere un po' sintetico, così possiamo passare anche le altre domande. Ivano, buongiorno. Pronto? Sì, Ivano, buongiorno. Siamo qua. Buongiorno. Allora, molto, molto in fretta. Io non credo di ricordare un momento in cui nella mia vita non ho avuto la spalla che esce dalla sua sede. Quando faccio dei movimenti di stretching portando il gomito dietro la spalla, però non me ne sono mai preoccupato. Non è dolorosa, fa un po' rumore. E non so se posso continuare a fare questa cosa qua, perché come stretching credo non serva a niente, perché io non tiro niente, la spalla si... Insomma, una spalla più che dolorosa, rumorosa, Ivano, dottor Respizzi, è ballerina. È la sua mamma che l'ha fatta così, Ivano, nel senso date che ci sempre sono... la colpa a noi no, donne. La mamma, anche papà, sì. Le mamme tendenzialmente fanno i figli, i mariti non ce la fanno. Allora, lei ha probabilmente un'instabilità di tipo congenito. Ci sono persone che sono più lasse, sì, a livello articolare, e che quindi più facilmente vanno incontro a questi fenomeni. Ci sono ragazzini, soprattutto adolescenti, maschi e femmine, che mettono, cioè, tirano fuori e rimettono dentro la spalla scherzando, facendo i fenomeni anche un po' con i loro amici. Non è niente di grave, nel senso che sono fatti così. Sono quelli che potrebbero fare i contorsionisti, ecco, sono tendenzialmente persone lasse. In questo caso non si fa nulla dal punto di vista terapeutico se questa spalla non è dolorosa. Quindi è chiaro che non va stretchata, non va fatto lo stretching perché non c'è niente da tirare, naturalmente, quindi ha ragione il nostro ascoltatore, ma se non c'è dolore, se non c'è impotenza funzionale, se non c'è difficoltà nella vita quotidiana, non si fa nulla, si è fatti così, punto. Innanzi vorrei farle i complimenti per la sua esposizione anche al dottor Castagna di Michele, che grazie, ci ha scritto un messaggio che non solamente in preparazione ma anche nell'esposizione, quindi grazie, avere dei medici chiari è una bella cosa. Invece io volevo chiederle per i nostri ascoltatori, quali sono le attività sportive che fanno bene alle nostre spalle, quali invece quelle che magari la mettono un po' in crisi? Ad esempio Lorenzo ci scrive: il nuoto può servire? Allora, poi andiamo a Lecce con Fausto e abbiamo Anna Maria da Parma. Lo sport tendenzialmente, quando è fatto a livello agonistico, quando è fatto in maniera molto, diciamo anche professionale addirittura, fa discretamente male alle spalle. Sì. Nel senso che la spalla di un tennista, di un giocatore di pallavolo, di un giocatore, di un nuotatore, sono di solito spalle abbastanza conciate, sì, diciamo così. Per la verità poi loro hanno una tal massa muscolare che questo compensa un po' tutto, naturalmente. Quindi se uno fa attività di nuoto a scopo amatoriale, così ludico, va benissimo, perché in quel caso la sollecitazione sulla spalla non è eccessiva e è invece favorevole per la muscolatura. Pensi che i nuotatori professionisti fanno 18 km al giorno di nuoto. Pensi, sì, quanti colpi di spalla sono, sì, non può far, certo, bene, no, inutile, certo. Phelps non ha le spalle a posto, evidentemente. Invece una pratica del nuoto 2-3 volte alla settimana è ideale. Va bene. Sì. Altre attività tipo tennis a seconda delle partite? Esatto, a seconda delle partite, però direi che comunque non sappiamo non quanti chilometri faccia una spalla di un tennista. Beh, però se ne si pensa, fa... nel tennis è ancora peggio, perché le velocità angolari dei tennisti sono mostruose, sono... picchiano fortissimo, naturalmente, tipo Nadal, questi personaggi qua. Lì è ancora peggio perché sono traumi, ogni volta è un trauma per la spalla, e magari fanno 200-300 battute ad allenamento. Sì, non poche. Fausto da Lecce, poi Anna Maria da Parma. 2 minuti. Fausto, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Fausto. Io avevo lo stesso problema più o meno della signora della sarta. Della sì, sarta. Con il braccio sinistro, che io faccio il camionista, ho 38 anni, è un paio d'anni che ho questo problema qua, però me lo massaggio con le mani, massaggio i nervi che partono dal gomito fino alla schiena, e un po', diciamo, che mi rilassa. Dopo un paio di giorni mi fa male di nuovo, che a volte si addormenta. Quindi il massaggio lo aiuta, ma il dolore ricompare. Cervicale? È molto probabile che sia un problema di cervicale, sa? Si deve far vedere da quel punto di vista, non è un problema di spalla. E poi riabilitazione? La riabilitazione, con tutte le nostre terapie, con tutto quello che può essere utile per noi. Noi abbiamo molte tecniche che possiamo utilizzare, ad esempio noi utilizziamo molto l'ipertermia in questi problemi di contrattura muscolare, di dolore cervicale, proprio perché l'ipertermia porta un calore favorevole che stimola le strutture e quindi cerca di favorire processi di guarigione dei tessuti. E quindi è una tecnica che noi utilizziamo molto con notevole beneficio. Non c'è tempo per dare la parola ad Anna Maria, che vorrei però salutare e dire ad Anna Maria che il dottor Respizzi, se lei ci scrive a esserebenessere@radio24.it, il dottor Respizzi le volentieri risponderà volentierissimo. E quindi ad Anna Maria, che non so se è in linea. No, sì, non... sono in linea. Ecco, ecco, Anna Maria, chiudo con lei, mi spiace perché siamo proprio in chiusura. Approfitto di lei per salutare i nostri ascoltatori, il dottor Respizzi, che avrà sicuramente, lei mette Anna Maria e lui risponde subito, precedenza assoluta. Grazie Anna Maria, anche a lei buona giornata. Dottor Respizzi, noi ci sentiamo per una puntata tutta dedicata alla postura. Magnifico. Che cosa fare quando voi dite una buona postura? Beh, allora in pratica cosa faccio? Ne parleremo. Intanto un saluto a voi, buone spalle, noi ci sentiamo domani dopo il GR delle 11.